prendevano l'assegno di cassa integrazione, ma invece di essere a casa continuavano a lavorare in azienda che non era affatto in crisi, ma produceva e come, tanto che gli operai uscivano di casa ogni mattina per andare proprio lì a lavorare. E venivano pagati dall'INPS. Una maxi truffa da 2 milioni di euro, quella scoperta ieri a Pesaro. Così sono stati denunciati 4 imprenditori manifatturieri e 45 dei loro operai. In pratica venivano messi in cassa integrazione, percepivano l'assegno, ma in realtà continuavano ad andare sul posto di lavoro. La Guardia di Finanza li ha denunciati tutti e 49 per truffa aggravata ai danni dell'INPS. Nella stessa azienda altri 85 dipendenti venivano pagati fuori busta quando facevano gli straordinari e poi c'era un operaio risultato assunto in nero e così alla fine c'è stata un'evasione contributiva per oltre 600.000 euro e un'evasione fiscale superiore al milione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.